di 20, no? No, di 8. Di 8, vabbè. Sì. Perdiamo di 8 contro la Germania, padrona di casa. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo in diretta da Expo Cibus Italia, lo saremo anche domani. Mi piacerebbe, giuro, essere così bravo da trasmettervi con la voce, con le parole, le emozioni che provo davanti a questo weekend, davanti a queste partite. A proposito, pronostici, visto che porta bene, li faccio da qui, Valerio in regia, inutile che ridi, li faccio da qui fino alla fine degli europei. Si gioca alle 14:30 Italia-Serbia contro la Serbia allenata dal nostro e mio soprattutto grande amico Saša Djordjević. Perdiamo di 9, si perde di 9? Va bene, facciamo così, perdiamo di 9 questa partita, ma poco conta perché a Lille, alla fase eliminazione diretta, si tratta di capire quale sarà il nostro piazzamento in questo girone che molti dicevano impossibile. Sarà, perché così sarà. Però è un weekend, vi dicevo, mi piacerebbe essere così bravo da trasmettervi le emozioni che provo davanti a questo weekend di enormi palcoscenici per lo sport italiano. Sono cose che sono scritte nelle stelle, che succedono quasi senza aspettarselo. Allora, Lille, dove andremo con il basket tra sabato e domenica? Oggi scopriremo se sabato o se domenica, dipende dall'avversario. New York per il tennis, dove ci sono due donne, due super atlete italiane. Non sono ragazze, perché né Pennetta né Vinci sono più ragazze, sono due storie meravigliose. Ebbene, loro si giocheranno stanotte le due finali degli Australian Open. C'è Madrid per la Vuelta, Madrid che aspetta il vincitore del Giro di Spagna domenica. E Aru, dopo la cronometro di ieri, con soli 3 secondi di distacco, viene considerato da tutti il principale favorito. Poi proveremo a capire come, dove e perché. C'è Misano, dove ci sono 100.000, ripeto, 100.000 spettatori che domenica attenderanno il via della gara con Valentino Rossi in cima al mondiale. E quasi sullo sfondo, tutta un'intera giornata di calcio in cui ci sono dei temi di un interesse clamoroso, perché c'è chi non può più sbagliare, come la Juventus che sabato sera gioca contro la capolista Chievo, e chi l'avrebbe mai detto? Chievo 6, Juventus 0, confronto testa a coda. La Roma domani, sabato pomeriggio alle 18, gioca con il Frosinone, e anche lei non può più sbagliare, perché altrimenti rischierebbe di rovesciare con un calcio il secchio di latte riempito proprio contro la Juventus di punti e di credibilità. C'è il Napoli con Sarri che va a Empoli, torna nella sua Empoli, e anche qui non sono ammesse prove d'appello. E il grande sipario sarà per il derby di Milano. Dobbiamo arrivare lì domenica 20:45 ed è meravigliosamente lunga. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico. Lo so, mi sono dilungato. E che ci volete fare? Io ci ho provato a trasmettervi le mie emozioni. Non so se ci sono riuscito. Provateci anche voi. 800 24 00 24. Subito dopo le informazioni perché è in viaggio, proveremo a parlare insieme di tutto questo. Loro hanno fatto ovviamente come ci aspettavamo diversi parziali. Schroeder ha giocato benissimo, Novitski. Che dire, come ho detto, è stata una battaglia incredibile, siamo contentissimi di aver vinto. Ci giochiamo anche al primo posto domani con la Domani sera. Ci giochiamo anche al primo posto, sì. Grazie Andrea. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, mi sono dimenticato di dirvi che oggi Pierluigi Pardo è contumace, lo ritroveremo naturalmente domani, Giorgio De Luca è il nostro autore. Saluto e ringrazio il mio amico Mario Boni. Ciao Mario! Ciao Carletto, buongiorno a tutti! Scusa per l'attesa, mi sono dilungato, sono diventato verboso, ma sono veramente emozionato. Mi piace sentire il traffico, io sono sempre in autostrada, quindi voglio sempre sentirlo. Ti va bene, ok, Cruciani meno. Senti, in Italia è basket mania, no? Lo stiamo vedendo sui giornali, ma insomma è una cosa che qualche volta abbiamo già visto. La vittoria sulla Spagna è stato il trionfo dell'attacco, della bellezza, dell'estetica, del talento dei nostri. Quella sulla Germania è stata la vittoria della sofferenza, del cuore, dell'agonia e di un supercampione che si chiama Danilo Gallinari. Esatto, io direi che insomma il talento, la capacità di questi ragazzi di giocare è venuta fuori trabordante. Insomma, Danilo Gallinari non me lo aspettavo così, sapevamo che era forte, non così forte, è lui l'ago della bilancia delle prestazioni dell'Italia. Di là poi di Bellinelli e Bargnani che stanno facendo bene, Gentile benissimo, Aradori, tutta la panchina ha trovato, come dire, la capacità di essere preziosi anche con meno minutaggio. Quindi complimenti, siamo tutti emozionati, sono emozionato come tutta l'Italia cestistica, penso anche tutta l'Italia, no? Voglio vedere il basket tornare in cima o perlomeno vicino alla cima dell'Europa, quindi vediamoci questi momenti e vediamo dove giocherà gli ottavi. Sì, vediamo dove giocherà gli ottavi. Ricordo, tra una dozzina di minuti salto a due per Italia-Serbia, partita che deciderà le posizioni in classifica. Siamo già a Lille, tra l'altro prima della partita c'è stato un allarme incendio all'interno del palazzetto dello sport di Berlino, evacuato, nulla è successo, tutti rientrati e quindi tutto regolare. Comunque poi ci colleghiamo anche con Berlino. Mario, sembra che quasi che questa squadra sia fiorita all'improvviso, perché c'erano tanti dubbi che la accompagnavano e la partita iniziale con la Turchia ha allargato, ha dilatato questi dubbi. Sì, però bisogna fare anche un'analisi tattica, adesso magari quando si vede vincere e si osserva la pallacanestro ci si esalta per alcune situazioni, ma vorrei darti un piccolo spunto tattico. Io credo che la Turchia abbia un grande allenatore quale Ataman. Se hai notato, i pick and roll che giocava Bellinelli erano sempre forzati verso la mano sinistra e l'uomo inseguiva. Adesso vado un po' nel tattico, cosa che ha sbagliato completamente la Spagna. Scariolo ha dimostrato, secondo me ha perso lui la partita accettando i cambi su ogni pick and roll. Ecco alcune piccole cose che io ho analizzato guardando le squadre. Non mi piace tanto quando Bellinelli insiste nel pick and roll, lui deve fare quello che sa fare meglio, cioè essere un tiratore straordinario, uno dei migliori al mondo. Quindi ecco, bisognerà analizzare, bisognerà vedere poi come gli altri allenatori ci giocheranno le partite, soprattutto il pick and roll centrale dei giocatori italiani e nello specifico se accetteranno o meno il cambio secco difensivo. Scusatemi, certo, se mi sono andato troppo in tecnico, però io ritengo che contro la Turchia sia stato illuminante, è stato bravissimo Ataman a forzare la mano sinistra di Bellinelli, a seguirlo e a forzarlo verso l'interno. Questo è stato veramente molto bravo a parte Ataman. Mentre se tira sugli scarichi, ciao. Se tira sugli scarichi può anche aver fatto 0 su 15, però no. Può aver fatto 0 su 15, però quello lo mette. E l'abbiamo visto anche ieri sera dopo una partita difficile di Marco Bellinelli. Ma dopo il primo tempo, con Carlo, il secondo tempo è stato super perché ha preso i palloni su un quarto supplementare, Mario. Quarto supplementare. Lì esatto. Abbiamo visto Bellinelli. Gallinari, ragazzi, Gallinari può giocare in 4 ruoli, può giocare se poi anche 5 ruoli, quindi forse cambi, è bravo dell'uno contro uno, tira da tre, va fino al ferro, è forte fisicamente, 2,08 m. Ecco, Gallinari, io non aspettavo un giocatore così forte. Sì, io neanche dal punto di vista emotivo ti direi, perché prendere quell'ultimo tiro è qualcosa che fai se senti che la potenza, la forza è con te, come si diceva in quel famoso film. Mario, dimmi la verità però, adesso ti piacerebbe vedere fiorire l'Inter come l'Italia? Ecco, bravo, adesso la penserai come Stankovic che è Milan favorito. Adesso sono curioso perché magari hai paura di Balotelli. No, ma sai, sono contento che Balotelli sia tornato in Italia, che ritengo che possa ritornare ad essere un grande giocatore, ma al di là di questo voglio vedere giocare bene l'Inter, perché le prime due partite contro l'Atalanta e il Carpi, insomma, noi interisti ci siamo messi un po' le mani nei capelli. Vediamo, domani c'è il derby, non ci sarà più una squadra che ci aspetta, sarà una squadra che vorrà giocare e lì i giocatori di talento, di classe e la capacità di Mancini devono venire fuori. Però firmeresti col sangue per un bruttissimo 1-0 all'89esimo al 92esimo fuori gioco, rigore fischiato in fuori gioco. Mario, ti voglio chiedere un'ultima cosa, visto che poi continueremo a parlare di questo. È incredibilmente, ogni tanto succede, no? Per le stelle dello sport, per strane congiunzioni astrali, questo è un weekend in cui il derby e il calcio finiscono quasi sullo sfondo, perché Gallo e Bellinelli ne abbiamo parlato, vince Pennetta a New York, Valentino davanti a 100.000 a Misano da primo in classifica del moto mondiale, Fabio Aru che ha la possibilità di trionfare a Madrid e vincere la Vuelta. Sinceramente cose così non capitano quasi mai, io non me ne ricordo, sono abbastanza vecchio ma non me ne ricordo. Beh, siamo vecchi e cose così emozionanti anch'io non ricordo. Ecco, un piccolo brivido ce l'ho per Aru nel Giro di Spagna, nella Vuelta, quello è per me molto emotivamente molto forte, ecco, sarebbe straordinario. Mario, grazie, alla prossima, in bocca al lupo per il derby, ma siete favoriti o sfavoriti? Noi siamo favoriti. Io non sono scaramantico, favoriti, vinciamo 2-0. Te lo dico a Stankovic, adesso lo chiamo. Ciao, a tutti. Ciao, vi abbraccio. Allora. Adesso andiamo su un altro palcoscenico pieno di emotività, che è quello che ho citato, di New York. Ci sono gli US Open, era già successo che queste meravigliose ragazze, prima la Errani e poi la Pennetta, arrivassero in semifinale in uno dei quattro tornei più importanti del mondo, ma due qualificate alle semifinali non le avevamo avute mai. Fatto sentire l'effetto sonoro, d'altra parte ho detto che oggi mi piacerebbe, il mio sogno sarebbe quello di provare ad emozionarvi con i suoni, e la voce, le parole, le immagini non le ho, ma le potete trovare da qualunque altra parte. Ciao Paolo Bertolucci. Buongiorno. Buongiorno a te. Abbiamo sentito l'effetto sonoro del punto decisivo della vittoria di Flavia Pennetta. Una generazione di ragazze meravigliose, verrebbe voglia di congelare il tempo, anche questo tempo di attesa che ci separa da adesso alle prime luci della mattina, quando vedremo in campo prima la Vinci e poi la Pennetta. Vorremmo quasi tenerci stretta questa sensazione, questo pensiero di averne due là. È una generazione di fenomeni, non c'è niente da dire, da aggiungere. I risultati parlano chiaro. Insomma, in questi anni il tennis femminile italiano ha avuto dei successi incredibili, e soprattutto, oltre naturalmente alla Schiavone e anche alla Errani, la Pennetta e la Vinci, che hanno purtroppo superato la trentina, ma sono ancora ai vertici del tennis mondiale, a dimostrazione della serietà, della classe, del valore di queste ragazze. E Francesca Schiavone, l'hai citata nel modo più corretto possibile, è quella che ha cominciato tutto, no? Perché Parigi non si dimentica. Beh, c'era già stato prima, insomma, la Farina, prima la Reggio, insomma, diciamo che a livello femminile abbiamo sempre avuto delle punte notevoli, però una continuità di risultati come hanno avuto queste ragazze negli ultimi anni sinceramente non c'è mai stata, e men che meno due semifinaliste nella stessa prova. Infatti. Forse è brutto fare dei paralleli, dei paragoni, mettere le cose sulla bilancia, però il risultato sportivo di due semifinaliste a New York forse è il più importante che abbiamo avuto in questa generazione di fenomeni. Sì, beh, sicuramente, insomma, poi le Federation Cup, la vittoria della Schiavone a Parigi, insomma, ho detto sono certo. Anni e anni, e devo dire, insomma, lo sport, come giustamente hai citato prima te, il basket, insomma, il fatto di avere, come dire, questo un weekend leggermente depurato dal calcio, credo che non faccia male. Dopo avremo tanti mesi calcistici, quindi va bene così. Sì. Certo che va bene così, anche perché non sai più dove guardare per varie congiunzioni astrali, dicevo prima. Beh, ma abbiamo vari orari, questo è bene. Si può vedere tutto. Abbiamo tanti canali, possiamo vedere tutto. Ubriacarsi di sport. Sì, e il Coramin sul tavolino del televisore, perché io credo che sarà un weekend tosto. Senti, bello, vinci bello, Serena, tosto. Vinci Serena. Beh, Serena Williams ha detto giustamente Roberta, andrò in campo con l'elmetto e probabilmente sì, anche con la corazza. Ma purtroppo c'è un peso fisico, una fisicità diversa, insomma sono 30 kg di differenza, lasciamo perdere poi il valore, stiamo parlando della più forte giocatrice probabilmente di tutti i tempi, quindi insomma che gioca a casa sua sulla superficie preferita, insomma è un'impresa e che sta benissimo, che definire sta benissimo ardua vuol dire andarci leggeri, ecco. Pennetta Alep? Pennetta Alep invece è molto intrigante, l'Alep è favorita, il numero 2 del mondo, però insomma non è quella giocatrice a livello femminile, se togliendo naturalmente Serena, per il resto l'abbiamo visto, la Muguruza anche in finale a Wimbledon, ci sono 10-12 giocatrici, una volta una, una volta l'altra, che possono benissimo inserirsi. L'Alep probabilmente è l'ultimo ostacolo, ma è un ostacolo sormontabile, difficile ma sormontabile per una giocatrice come la Pennetta. Sì, che ieri per me era sfavorita nel confronto di ieri, per varie ragioni la vedevo come sfavorita nel confronto di ieri. Sì, però la Kvitova è una grande giocatrice, ma non c'è nessun'altra più altalenante di lei, quindi insomma è una che crea molto ma che concede anche moltissimo e quindi confidavo molto nella solidità della Pennetta. Paolo Bertolucci, chi vince il derby di Milano? Tanto oggi lo chiedo a tutti. Beh, io sono milanista, quindi lo so, è ovvio che spero, lo so, quindi vince l'Inter. Spero il Milan, però poi insomma vedremo, siamo all'inizio del campionato, c'è tempo, noi sicuramente siamo più indietro secondo me rispetto nella progettazione, però insomma se è una partita poi vedremo. C'è dai. Balotelli, l'importante è che diciamo rispetto agli altri anni siamo sicuramente un po' più competitivi, ecco. Sì, certamente. Poi il derby di Milano alla terza giornata, dicevo prima, è il derby meno deprimente che c'è stato negli ultimi anni. Sì, perché sì. È tutto c'è da tempo da per rimediare in ogni caso. Bravissimo. Paolo, ti ringrazio, grande. Grazie, ciao Paolino. Un abbraccio. Ciao Paolo, ciao. Bertolucci. Allora, borsa. Facciamo la borsa e poi andiamo dagli ascoltatori. Cominciamo con gli ascoltatori, con Davide e Riccardo, primi due convocati di oggi. 800-24-0024. Ragazzi, se non intervenite oggi, con questo weekend pazzesco che stiamo per vivere, vabbè, allora siete capaci solo di intervenire sugli arbitri il lunedì, lasciatemelo dire. Sentiamo dopo. Avviso ai bagnanti, si è smarrito un signore di nome Pierluigi Pardo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Allora, se possibile, ed è possibile, farei un giro a Berlino, dove l'Italia sta giocando nel primo quarto contro la Serbia. Ultima partita di questo girone di qualificazione, siamo già qualificati, ma è una partita che serve per scoprire in quale posizione. C'è Carmelo Prestisimone, come va? Sì, buonasera, buon pomeriggio, bentrovati qui da Berlino, Mercedes-Benz Arena. In questo momento la Serbia è avanti, 8-0, un parziale terrificante prodotto soprattutto dalle penetrazioni di Teodosic e di Kuzmic. L'Italia prova a reggere, ma deve ancora un po' trovare i primi giusti per sostenere la forza, la potenza dei giocatori serbi, che ricordiamo che sono dei giocatori straordinari. La Serbia è una delle candidate a vincere questo europeo. L'Italia che comunque sarà già a Lille in Francia, cioè sabato o domenica, per la fase finale di questo europeo, per capire naturalmente chi dovrà affrontare. Noi sentiamo meravigliosi rumori di fondo del palazzetto, meno bene la voce di Carmelo Prestisimone. Torniamo dopo, comunque 8-0, ma siamo soltanto all'alba di questa partita, che deciderà in quale posizione ci qualificheremo e quindi deciderà il nostro avversario per Lille. Incrociamo girone di Francia, Israele, Bosnia e compagnia cantante, girone ancora da definire, salvo la vittoria per i francesi, e quindi scopriremo al termine di questa giornata il nostro avversario per sabato o per domenica a Lille in Francia. Davide da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare un piccolo intervento sul basket. Sì. Ho già fatto un sacco di apprezzamenti e suggerimenti tecnici. Io volevo invece portare l'attenzione su un altro discorso, una piccola premessa: io ho più di 60 anni, gioco ancora a basket, inverno al palazzetto ed estate al campetto. La grande amarezza che provo in questo momento è che ho molta gente che in Italia non riesce a vedere la propria nazionale perché la Rai non la trasmette. Sì, Davide, questo è solo questa piccola considerazione. Guardi, no, non è piccola, è grande, è un discorso complesso che abbiamo affrontato anche ieri ed è probabilmente il prodotto dello sport moderno. Purtroppo non esiste più quasi un diritto alla nazionale, un diritto alle grandi competizioni. Esistono invece dei diritti televisivi che sono di chi se li compra a caro prezzo e che poi li vende sul mercato televisivo. Ma questo non è qualcosa che accade soltanto in Italia, è qualcosa che accade in tutto il mondo, a cominciare, a partire probabilmente dagli Stati Uniti, con le TV via cavo, con i grandi eventi trasmessi a pagamento. Dobbiamo, non dico rassegnarci, ma probabilmente trovare altri e diversi modi, altre diverse maniere di fruizione dello sport se non abbiamo voglia di pagare l'abbonamento. Banalmente, organizzandoci con gli amici, andando al bar, eccetera. Purtroppo un diritto allo sport non esiste più. Poi ci sono dei limiti, ovviamente, conosciamo benissimo quando ci sono i mondiali di calcio, quando ci sono le Olimpiadi, però questo diritto alla grande competizione con l'Italia protagonista non ce l'abbiamo più. Ma stiamo giocando e quasi nessuno se ne sta accorgendo per ora, e noi ne parleremo anche un mondiale di pallavolo in Giappone trasmesso su Sky, tanto per dirne una. Riccardo da Roma, buongiorno. Salve, buonasera. Sì, buonasera. Allora, io ho voluto fare un intervento perché sono un ex giocatore di pallacanestro, però nei miei tempi, anni 70, e ho visto la partita di ieri sera, era la prima volta che vedevo dopo tanti anni la nazionale. Diciamo che la Germania non è niente, è una squadra, direi, abbastanza mediocre per me. Ha fatto soffrire l'Italia perché hanno fatto fare il bello e il cattivo tempo a quello Schroeder, quel playmaker di colore che penetrava dentro la canestro, sì, come un missile. Nessuno è riuscito a intercettarlo, a fare un doppio blocco e quant'altro. Sì, e questo è quello che abbiamo notato in superficie, Riccardo. Poi abbiamo lasciato la palla in mano a a questo ragazzino di grande talento che ha giocato in pratica tagliando fuori gli altri, perché io se sono la Germania vado a giocare, a vincere o a perdere, a vivere o a morire con Dirk Nowitzki, non con Schröder. Poi il dato evidente è che gli abbiamo lasciato la palla in mano e gli abbiamo aperto le porte della difesa, anche perché non c'era nessuno, ma forse non c'è nessuno in questo europeo capace di tenerne il primo e il secondo passo. Non dimentichiamo che questo gioca nell'NBA, negli Atlanta Hawks, che è un eccellente giocatore, però il risultato qual è stato? Che abbiamo lasciato la palla in mano a lui, magari difendendo non perfettamente, perché forse si poteva anche sfidarlo ad un tiro da fuori che non è impeccabile, però alla fine questo ha significato tagliare gli altri fuori dal gioco, e alla fine il risultato non è stato malaccio. Allora, saluto e ringrazio Walter Novellino. Ciao mister. Ciao, però abbiamo vinto, la cosa importante è vincere. Sta chiaro, abbiamo vinto anche con una fatica pazzesca. Senti, ma dicevo, toglimi una curiosità, cosa ti sta appassionando di più? Perché io sto diventando matto, cioè cerco di tradurre le mie emozioni con le parole e non ci riesco benissimo. Il basket o il tennis con due in semifinali? Il tennis. Sì, con la il moto mondiale Rossi 100.000 di Misano, anche il ciclismo quello. Con Fabio Aru, anche quello, meno del calcio in questo momento. Ripeti, scusa? Meno un po' con la nazionale, la verità. Ma no, la nazionale perché non ci Conti sta facendo i miracoli, credo, veramente i miracoli, perché non, i giocatori di qualità non ci sono più, cioè, giocatori di qualità no. Fa una fatica enorme a trovare uno che ti salta l'uomo, veramente credo che Conte sta facendo veramente qualcosa di tanta roba. Sì. Anche se non in Italia in Italia si sta giocando solo gli stranieri, i settori giovanili si abbandonano, si mandano, non si crede più nel settore giovanile, non riesco a capire come mai. Eppure meno male che c'è la Serie B, che c'è un serbatoio enorme, insomma. Sì, Serie B, facciamo giocare i giovani, però i italiani si fanno giocare. Sì, però posso chiederti, guarda la pallacanestro, non è che le squadre del campionato di Serie A abbiano tutti italiani, anzi, c'è stato quest'anno l'esempio di Reggio Emilia, ma che era una mosca bianca. Campioni d'Italia sono Sassari, che erano praticamente una squadra di stranieri con un allenatore italiano. Sì, ma in tutto. Eppure abbiamo avuto questa generazione di fenomeni. Nel calcio questo non succede, forse sono cose cicliche. Sì, esatto, forse. Però onestamente devo dirti la verità, le due partite con l'Italia non so se a te sono piaciute, ma a me onestamente no, perché qualità poca, insomma. Io guardo gli europei dall'altra parte, Germania, vedete tutti che giocano, tutti giocano, la Finlandia giocano tutti, perché hanno forse non so, noi non riusciamo a creare più, non ci sono più difensori, non c'è più niente da noi. Una volta noi eravamo il numero uno nella fase difensiva, adesso ci tocca andare a spendere tantissimi soldi senza togliere niente alla bravura di tanti giovani che noi andiamo a comprare, a prendere, però si fa una fatica enorme. Io credo che bisogna ritornare un attimino a dare importanza anche al settore giovanile. Sì, questo pensiero, è certo. Il mio pensiero comune diffuso. Ti chiedo un istante di pazienza, poi ti chiedo di darmi una mano a fare una fotografia alla giornata di Serie A che ci sta aspettando. Walter Novellino, traffico. Nando San Vito per noi. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Convocati. Allora, ho chiesto a Walter Novellino di aiutarmi a fare una fotografia a questa giornata di campionato. Domani Fiorentina col Genoa e tifosi viola scontenti, come hanno dimostrato per la campagna acquisti. Roma a Frosinone per evitare le trappole. E poi la Juventus alla prima partita decisiva della stagione, giusto? Sì, devo dire, la Fiorentina a me mi è piaciuta la prima giornata. Leggo molte critiche, Ma d'altronde se i giocatori non ci vogliono stare, Salah ha voluto andare via, Joaquin ha voluto andare via, io penso che la Serie abbia investito tanto e c'è una bella squadra, Frosinone, Frosinone Roma, ecco, c'è, sto leggendo, almeno ho letto che esordisce Totti, sono sì, contento perché è l'unico giocatore che sa verticalizzare, mi sembra Rivera, no? Quando giocavo col Milan, Rivera guardava da una parte, la palla ti arrivava. Certo. Non te l'aspettavi neanche, insomma. Io credo il Frosinone diciamo, è una squadra che allenata da Stellone, un mio giocatore, io vero, mi auguro veramente di fare un risultato importante, però la Roma, devo dire che la Roma diciamo nel mercato ha una grande squadra che può, secondo me, può dar fastidio alla Juventus. Se la Roma è quella vista con la Juve, non ci dovrebbe essere gara. La Juve è un'altra storia, 0 punti contro Chievo che ne ha 6, si gioca a Torino, inutile dire che sarebbe banale che la Juventus è favorita, però è una partita che la Juve non può sbagliare e possibilmente deve anche giocare bene, convincere e tirare un po' sul morale alle tante vedove di Pirlo, di Tevez, eccetera. Mister, non lo sento più Walter Novellino, è un peccato che mi manca anche il pronostico del derby, guarda un po'. Vabbè, Mauro da Milano, buongiorno. Buongiorno Mauro. Ma come, se non sento più neanche Mauro, che famo qui da Expo? Facciamo parlare Valerio della Roma. Proviamo con Totò da Como. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, finalmente, scherzi dei telefoni. Dica Totò. Allora, io volevo parlare un attimo del derby e poi tirar fuori anche l'argomento Balotelli. Allora, io credo che... io sono milanista. La speranza mia, io ho due speranze. In primis che Galliani vada via. E quindi la speranza mia per il derby è che Mihajlovic assecondi tutte le richieste di Galliani, okay? Che sarebbero quelle di far giocare in blocco Abate, Montolivo, Cerci, Balotelli, Poli, prendere una trambata pazzesca per poi vedere cosa hanno da dire tutti quelli che dicevano che i Montolivo, i Poli, i Balotelli, i Cerci devono giocare. Ma questo lo dice, cioè che dà le veline normalmente non è Galliani, eh? No, allora sì, questa è l'opinione un po' di tutti, però a mio avviso nel Milan comanda Galliani, perché Berlusconi è, secondo me non è che si interessa più di tanto ormai più del Milan. Beh, insomma si interessa un po', è quello basta. Che mette le firme poi alla fine, secondo me. Però la verità è che le decisioni le prende Galliani, basta. Perché altrimenti Balotelli non sarebbe mai più ritornato al Milan. Però essendo, secondo me, anche se probabilmente non si può dire, però me ne prendo le mie responsabilità, a mio avviso Raiola con Galliani sono in società. Allora è chiaro che anziché andare a prendere un giovane che ti costa molto meno, se è assistito da Raiola prendo quello di Raiola, se non è assistito da Raiola allora non ne vale neanche la Totò, pena. Un giocatore che costa meno di Balotelli ora forse non c'è neanche in Lega Pro, cioè, saprà le cifre che hanno portato Balotelli a Milano praticamente gratis. È chiaro, è in prestito, con lo stipendio pagato in larga parte dal Liverpool, stipendio molto elevato ma pagato in larga parte dal Liverpool. Poi sa, tutto quello che lei dice è quello che pensa molta gente, no? Che Galliani abbia le sue simpatie, i suoi procuratori di riferimento. Tutte queste cose molte le pensano e molti le dicono anche. Io non credo però che Galliani sia così influente sulle scelte di un allenatore, men che meno possa essere così influente sulle scelte di Sinisa Mihajlovic. Non credo neanche che Berlusconi sia così disinteressato al Milan dal punto di vista del gioco, dell'immagine, di quello che può produrre. Non lo è mai stato. E, insomma, tante volte abbiamo avuto allenatori che hanno manifestato dei problemi con la presidenza, e anche lì è inutile che usiamo troppi giri di parole, da Ancelotti a Leonardo ad Allegri stesso, a tanti altri, che vincessero, che perdessero, però i pizzini non arrivavano dall'ufficio di Galliani normalmente. Tommaso Milano, buongiorno. 80024 0024 il numero verde, dica Tommaso. Buongiorno, chiamo da Milano, sì, mi chiamo Tommaso. No, volevo chiedere al signor Walter Novellino, che ammiravo quando era calciatore, da tifoso milanista, e mi piaceva il fatto che fosse anche un driblomane, e volevo sapere se secondo lui non si cura più l'aspetto fisico già da quando sono bambini, e intendo dire proprio la stazza fisica, piuttosto che le qualità tecniche, perché io vedo che l'attenzione da parte degli osservatori, degli allenatori, delle squadre professionali. Sì, adesso li vogliono alti e grossi. Adesso li vogliono alti e grossi, Tommaso. Adesso e questo li vogliono è alti e grossi. Però, lì vogliono alti e grossi. Con i piedi quadrati. Poi dopo dicono insegniamo noi a giocare. Esatto. Funziona così. Esatto, funziona così. Walter Novellino non c'è più perché è caduta la linea e non riusciamo a recuperarla. Però penso risponderebbe allo stesso modo. Li vogliono alti e grossi, poi a insegnargli a giocare a pallone ci pensiamo noi, e a insegnargli bisogna essere anche capaci. Poi qui apriamo un lungo possiamo aprire un lungo discorso sugli istruttori, settori giovanili e quant'altro. Ragazzi, abbiamo un ospite importante che voglio lanciare così. Chiarizzi staggered, oh it's in! San Marino have equalized! Matteo Vitaioli with a thunderbolt! And suddenly, 10-man Lithuania have been pegged back! Matteo Vitaioli, l'hai messa sulla suoneria del cellulare questa? Magari, non riesco a trovarla, adesso appena la trovo la metto subito. Ma scusa, te la mandiamo noi in seduta stante. Mandatemela subito, che la metto subito. Guarda, Matteo Vitaioli provvede da De Luca, Giorgio De Luca tra un istante. Allora, da 14 anni, 25 aprile 2001, San Marino non segnava fuori casa in una gara ufficiale, da quasi due anni non segnava nel suo stadio tra le mura amiche dal 10 settembre 2013 con la Polonia. Adesso con la Lituania avanti 1-0, Vitaioli straordinario gol su punizione, festa come per vincere la Champions League, ma poi quello che segna di tacco al 93esimo, io non ci ho dormito una notte. Non ci voleva quello, pensa a noi invece. No, la delusione è tanta, soprattutto sul momento, perché potevamo fare due punti, era qualcosa di storico per la nostra nazionale. Già averne fatto uno e tanto, due sarebbe stata una cosa quasi irripetibile, forse. Tu giochi in eccellenza, in promozione, no? Io sì, gioco in promozione. Ma non gioco al Calcoriano in promozione. È il tuo lavoro? No, io lavoro, il mio lavoro in fabbrica, sono operaio. Finito il lavoro vado a allenarmi come tutti i ragazzi che giocano in nazionale, lo facciamo come una passione, diciamo, dai, il calcio per noi è una passione che ci viene da dentro. Senti Matteo Vitaioli, a me piacerebbe chiederti un sacco di cose, facciamo così, adesso il tuo numero ce l'abbiamo, ti mandiamo il tuo gol per la suoneria del cellulare, però ci sentiamo presto, mi farebbe davvero piacere fare una chiacchiera lunga con te su tutto quanto. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo insieme, abbiamo ancora mezz'ora. Guida Expo 8 0024 0024 numero verde. Ciao Ayu. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne, perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Convocati. È prevista un sacco di gente per il weekend. 100.000 vale, 100.000. Sarà un weekend difficile perché in Italia è sempre dura, perché il calore dei tifosi è sempre un po' difficile da gestire, però è bello. Ma l'importante è in pista, è quello che succede in pista. Misano mi piace molto, è la mia pista di casa, diciamo. E l'anno scorso sono riuscito a vincere qui dopo un sacco di tempo che non vincevo, quindi è stata una gara fondamentale. Bisognerà cercare di fare il massimo e di fare una bella gara, anche perché sono davanti 12 punti su Orghe, ma 12 punti è un'inezia, ecco, quindi bisogna cercare di arrivargli davanti. E a me piace tornare a sottolineare gli enormi palcoscenici sportivi che i nostri calcheranno in questo weekend, che lo sport italiano calcherà in questo weekend. Da Lille, dove giocherà il basket, siamo sotto con la Serbia alla fine del primo tempo, ma siamo in partita per decidere soltanto la nostra posizione. New York, dove c'è il tennis, dove nella notte le nostre ragazze, cioè Pennette e Vinci, si giocano le semifinali degli US Open. Madrid, dove c'è la Vuelta, che tutti speriamo possa attendere la maglia rossa di Fabio Aru. C'è il derby di Milano, che è quasi lì sullo sfondo. E c'è Misano, dove, diceva Valentino Rossi, l'abbiamo sentito, saranno in 100.000 a fare il tifo per lui e per la Ducati. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, questa volta è nel suo brodo primordiale, cioè il moto mondiale, e io lo saluto. Ciao Ale. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao. E abbiamo in collegamento anche un signore che conosci piuttosto bene, Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Cosa chiedi Alessandro a Paolo Ciabatti? Beh, insomma, farò la domanda più originale del mondo. Paolo, vai. Cosa fa la Ducati qua? Vinciamo? Beh, sarebbe bellissimo vincere, perché Misano ovviamente è il nostro secondo circuito di casa insieme al Mugello. Non sarà facile, perché ci sono ovviamente dei piloti fortissimi che si stanno giocando il mondiale, quindi inserirsi in questa lotta non è facile, però certamente ci siamo preparati bene. Abbiamo fatto due sessioni di test qui proprio a Misano nelle settimane scorse, quindi arriviamo sull'onda di un podio ottenuto a Silverstone, quindi diciamo nelle migliori condizioni, ma sappiamo che è sempre un impegno difficile contro le Honda di Yamaha e contro Rossi, Lorenzo e soprattutto Marquez, che sicuramente vorrà riprendersi le posizioni che non è riuscito a tenere nell'ultima gara. Alessandro Pasini, da quanti anni a Misano non si respirava un'aria così? Da tanti, anche se ti devo dire che Misano è sempre stata straordinaria con i piloti italiani e con Valentino in particolare, sempre, devo dire, anche quando c'erano gli anni di Magra, o quando, certo, però quest'anno i 100.000 che aspettiamo la dicono bene il momento. Questo è un momento straordinario, un momento storico, e diciamo la verità, non perché siamo italiani, ma questi gran premi come Misano, come Mugello, sono veramente degli eventi straordinari che infatti anche gli stranieri sanno apprezzare, insomma, perché qua siamo nella terra, no? Nella Motorland vera e propria, quindi nel cuore di tutto, dove tutto nasce, dove tutto palpita, insomma, la stessa Ducati, noi qui a due passi, eccetera, quindi qua non si può non sentire il rombo nel cuore, nelle vene. Poi dopo, da qua a vincere, naturalmente, come diceva bene Paolo, ne passa, però siamo tutti carichi, gli italiani stanno facendo una grande stagione, insomma, come singoli, come scuderia la Ducati, e quindi insomma sarebbe fantastico domenica, poi in questa domenica che tu hai descritto bene, no, poco fa, con tutti gli sport coinvolti, dare anche un mattone alla grande Italia da qua, ecco, però io sono fiducioso, ecco. Pensa a piazzare ovviamente la tripletta, pensa un'altra tripletta italiana, dici? Sbagliato a dirlo? Ops, no, ma io tocchiamo ferro, no, ma se lo dice a me, io non sono scaramantico, perché non sono un pilota. Se lo dice un pilota, ti insegue. E se lo dico a Paolo Ciabatti, cosa fa? Non lo so, mi sa che anche Paolo sarà un po' scaramantico. Io non sono così scaramantico, anche se nel mondo delle corse in realtà lo siamo un po' tutti, ma è chiaro che arriviamo da un podio tutto italiano a Silverstone, con la sorpresa bellissima di Danilo Petrucci, che ha fatto una gara fantastica con la Desmo 16 Ducati del team Tamac, fortissimo sotto la pioggia, è bravissimo, e vediamo, noi ovviamente sarebbe un sogno un podio tutto italiano anche qui a casa nostra, e perché no pensare in grande, non si sbaglia mai, perché bisogna sempre provarci. Senti Paolo, come sta Dovizioso? Perché ha avuto un inizio di stagione meraviglioso. Qualche problema? Io sono un fan di Dovizioso e volevo sapere, alla vigilia di questa corsa, che per lui, vabbè, non ti dico che rappresenta tutto, ma rappresenta tantissimo per lui sopra quella moto, vorrei sapere come si sente, come sta, come lo vedi, come lo leggi negli occhi. No, l'ho visto, siamo visti stamattina, abbiamo fatto un evento proprio su a San Marino con le nostre moto, e lo vedo molto carico e molto sereno. È chiaro che dopo un inizio fantastico con tre secondi posti consecutivi e anche la possibilità in realtà di provare a vincere la gara del Qatar, perché è stato in testa fino a un paio di giri dalla fine, e ha continuato a fare bene, ma ha avuto poi anche delle battute d'arresto, dei problemi tecnici, un paio di cadute, e quindi direi che per fortuna il podio di Silverstone lo ha aiutato anche dal punto di vista psicologico. Sì. Ripeto, noi ci siamo preparati bene, Andrea Dovizioso soprattutto ha usato appieno il tempo che avevamo qui a Misano nei test, e quindi è carico ed ha voglia di riprendere a lottare per il podio con continuità, e sono sicuro che qui abbiamo l'occasione per far bene. Un'ultima cosa Paolo, il favorito del mondiale è chi? Il favorito del mondiale è difficile dirlo, io penso che sono chiaramente, dico una banalità, Rossi e Lorenzo. E Valentino sta facendo una stagione fantastica e riesce a cogliere tutte le occasioni, anche dove è un pizzico di fortuna, la pioggia di Silverstone sicuramente ha ribaltato un pochettino le previsioni della vigilia, però è la verità, le condizioni erano così per tutte e per tutti, e lui ha fatto una gara fantastica, quindi credo che Valentino sia in una condizione perfetta. Lorenzo chiaramente va fortissimo, ma forse Valentino può farcela quest'anno, e sarebbe un sogno, perché sarebbe il suo 10° titolo mondiale, qualcosa di storico, soprattutto perché a 36 anni dimostra di avere la grinta, la fame e la voglia di combattere di un ragazzino, e questo non è comune a tutti. Aggiungerei, come direbbe Sacchi, che è di quelle parti, l'umiltà di riuscire alla sua età ad imparare ancora qualche cosa di diverso rispetto a chi ha dominato gli anni scorsi. Certo. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Grazie voi, Paolo Ciabatti, DS della Ducati. Io giro la domanda al mio amico Alessandro Pasini. Dunque, come siamo messi, Ale? Sul favorito, ma guarda, io dico Valentino, naturalmente non 80-20, dovrei dirti 51-49, però lo è, perché ha 12 punti in più, perché va sul podio da 12 gare, e non vorrei dimenticare Lorenzo, per 5 volte non è salito sul podio. Io credo che la continuità, insieme ovviamente all'esperienza, che poi in parte se la guardiamo è la stessa cosa, può fare la differenza. Credo che le prossime piste alla lunga portano un certo equilibrio, perché insomma ognuno prevale in una e non ha, però alla fine non sarà l'elemento di rimente. L'anno scorso hanno fatto pari punti in queste 6 gare Lorenzo e Rossi. Quindi alla fine credo che sia favorito, perché Valentino Rossi, poi naturalmente 12 punti sono un'inezia, ha detto anche lui, e quindi poi tutto si rimescola, però se devo giocarmi l'euro lo gioco possono su di lui pochi, possono essere pochi o tantissimi a seconda delle certo, condizioni certo. Possono essere pochi o tantissimi, perché quello che è successo nelle ultime due corse sorpasse contro sorpasse qualcosa che lascia segno al di là delle distanze matematiche tra certo. Guarda, sai cos'è un elemento che può intanto è curioso pensare che 12 punti erano gli stessi che c'erano in Qatar dopo la prima gara. In 5 mesi 12 gare Valentino alla fine ha tenuto botta, quindi questo può essere, no, visto nei grandi scenari, può essere un elemento positivo. Ma sai, il vero elemento imponderabile dato dal famoso trittico orientale, perché quelle sono 3 gare in 15 giorni, cioè 3 domeniche di fila. Lì un piccolo errore, dico niente di grave, ma non lo so, capito, ti fermi, addirittura sì, certo, sì. Devi saltare una gara, insomma cose così, lì ti frega. Quindi lì il problema decisivo è quello di passare indenne per un pilota che lotta per il mondiale, quel trittico, la testa fredda. Quello è il vero imponderabile. Sì, ma di avere la testa fredda su questo non ho grossi dubbi, su questa caratteristica di Valentino non ho grossi dubbi. No, certo, però insomma sappiamo che anche quell'altro è un bel fenomeno, quindi, un bel fenomeno altro che parliamo di fuori classe, parliamo di superstar assolute nella storia del moto mondiale. È come no, per cui 48-40 per la Serbia fine primo tempo. Posso chiederti una cosa da super inviato, Alessandro Pasini? Non fossi a Misano, che è il tuo stagno, cioè che è il tuo ambiente, sarei a Berlino, saresti a Berlino o a New York per il tennis o a Madrid per la Vuelta o a Milano per il derby? Allora sarei a Berlino, ma volerei a Milano, insomma andrei dappertutto. È il sogno di una vita, no? Andare a seguire per il mondo gli eventi sportivi senza dover lavorare. Ora faccio altri, sarebbe una cosa bella a essere, perché a te non piacerebbe essere milionari, no? Fare una vita così. No, comunque a parte gli scherzi, sarei a Berlino, mi piace molto questa nazionale. E quindi sì, quindi a Lille, perché da sabato esatto, si va a Lille in Francia, che comunque va bene lo stesso, anche se non è Berlino. Va bene. Però quando seri di derby se ne sono visti tanti, invece insomma questa Italia mi sembra molto molto interessante, dai. Exciting, come direbbero quelli là. Bella squadra da seguire. Però siamo qui, ci accontentiamo di Misano, dai. Ci accontentiamo. È un gran bello accontentarsi. Io sono Expo con Radio 24, con tutti i convocati, sono ugualmente felice. Poi sento voi che mi raccontate tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo ed è meraviglioso. Grazie Ale. Buon lavoro. Grazie a tutti. Un saluto. Ciao, un abbraccio, ciao, Alessandro Pasini. Torniamo agli ascoltatori, 800 24 00 24, Mauro, provincia di Milano, Tonino da Ascoli Piceno, e faccio anche a loro la stessa identica domanda che ho fatto ora ad Alessandro Pasini. Mauro, provincia di Milano, dove vorrebbe essere a vivere questo weekend? Assolutamente a Berlino. Aspetta, a Lille, torno a ripetere, a Lille ci siamo già. Hai ragione. Non hai sentito ieri sera Flavio Tranquillo che ha fatto il verso di Caressa... Ti ricordi, Beppe, chiudi le valigie e andiamo a Berlino per la finale, però naturalmente la ieri sera Flavio Tranquillo, Davide Pessina, chiudi le valigie, andiamo a Lille. Sì, ma oggi c'è una partita importante per giocare psicologicamente, sì, anche per la classifica e per gli accoppiamenti. Io non lo sto guardando perché sto lavorando, ma ti chiedo, anch'io sono convinto che Teodosic stia facendo una grandissima partita, perché purtroppo noi abbiamo tre grandi giocatori che sono andati a giocare di là dell'oceano, che stanno dimostrando il perché in questi giorni, tutti e tre. Attenzione che Bellinelli oggi è fuori causa, certo. viene tenuto a riposo perché ha questo problema all'inguine che si tira dietro da un po'. C'è Gentile che sta facendo il suo abbondantemente, purtroppo lo spot 1, con tutto il bene che si vuole a Cinsari, è un po' meno adatto, secondo me, ma a mio parere personale, sopravvalutato. Lo spot 1 si vede in crisi nera. Solo si è fatto neri, Park si farà neri, se dovremmo insomma comprarlo, oggi Teodos si fa neri, e la faccia di Margorati, di Ostola, di Carrieri, di Pozzecco, oggi che sia senza un playmaker che sappia penetrare, avere punti nelle mani e spaccare un po' il gioco è clamoroso. E ci manca, volendo, ci manca anche un pivot alla Meneghin, no? Possiamo dire che questa nazionale potrebbe essere addirittura più forte se avessimo un playmaker alla Marzorati, se avessimo un centro alla Meneghin, però io direi che ce n'è abbastanza per accontentarsi, anche perché devo dire che Cinciarini e Hackett, come gli altri, hanno fatto il loro, cioè non sono le superstar di questo europeo, però hanno fatto il loro, soprattutto un playmaker come Hackett, che a te non piace tanto, a me piace un po' di più. Sai, è uno che anche dal punto di vista fisico, quando giochi in Europa, quindi a livelli di basket da Eurolega in cui la fisicità conta molto, è uno che si fa sentire. Ieri non mi è piaciuto, ha sbagliato molte scelte, ha giocato forse la sua peggior partita in questo europeo, però non sono due giocatori da buttare via. La partita di oggi è importante. Valerio, dammi il parziale. Non mi dai il parziale. Siamo sempre 48-40, non è ancora iniziata la ripresa. Benissimo, 48-40 con la Serbia di Saša Đorđević, e ci giochiamo l'accoppiamento nella seconda fase. Tonino, Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno Gedda, buonasera, come vuoi. Io buongiorno. Adesso ti voglio sciorinando i pronostici. Oh, che meraviglia. Sei contento? Così non lo... Ma sicuro, allora, così non lo faccio subito. Io. La decima io penso che la portiamo a casa, Valentino. Ah. La decima, la decima, questa la portiamo a casa sicuramente. Sì. Non solo la vittoria al Mugello, proprio il titolo mondiale. Sì, capito, il decimo titolo mondiale, certo. Esatto. Poi, dove vorrei essere questi giorni? Io ho il dono dell'ubiquità, sono dappertutto. Allora, cominciamo subito. Me ne vendi mezzo chilo? Allora, diciamo subito. Sono con l'Italia a Lille. Sì. Gran bella squadra, io lo chiamo il Dream Team. Questa è una squadra da sogno, secondo me, come non abbiamo mai avuto negli ultimi 30 anni. Sì. Poi domenica sicuramente sarò a Madrid a festeggiare il rosso di Villacidro, sicuramente. Sì, sì. Poi diciamo che sarò a Milano con Valentino. Con Valentino e a New York sono nella in Giappone. Notte. Per il volley, per la pallavolo, terza vittoria consecutiva nelle prime tre partite contro Egitto, certo. E sabato abbiamo gli Stati Uniti, quindi ci abbiamo alla quarta quasi sicuramente. Poi purtroppo Williams Vinci, qui. Beh, New York vabbè, è lontana. Per la pennetta invece ho molta fiducia. Io penso che la finale potrebbe essere Williams pennetta. E noi ce la giocheremo serenamente, andando a New York. Torino, ma io ti ringrazio tanto. Aspetta. Dimmi solo secco chi vince il derby, secco, il derby, perché poi Inter. Devo andare in Spagna da Stato. Inter. Quanto? Non quanto? C'è discussione, guarda, vincerà 2-1 con un gol al 92esimo in fuorigioco. Fantastico, allora adesso sappiamo tutto di questo meraviglioso weekend. Pier Augusto Stagi invece, non ha dubbi, sarà a Madrid per l'arrivo della Vuelta. Io gli faccio i complimenti, prima sento la voce di Aro e poi gli faccio i complimenti. Via Fabietto, non ci sono buoni, è 1,50. Via Fabietto, vediamo un po' sullo sforzo, la volata di Fabio Aru. Secondi, 1,50 è la volata, la perde ma per un soffio, Riccardo. Bellissimo, grandissimo finale di Fabio Aru. Peccato, a 3 secondi però, dalla maglia. Però 3 secondi siamo. Stanno in una buono. Ci siamo. Stanno in una buono 3 secondi. Bellissima cronometro di contenimento nell'ultima parte di Fabio Aru, non ce l'avevano fatto più vedere, però grandissima prestazione di Fabio Aru. Ma bene, dai, adesso ho 3 secondi in classifica, ci sono ancora 4 tappe. La Vuelta non è finita e darò il massimo in questi giorni. Come è stato la controllo? Dura, molto dura, però va bene così. Adesso ci sono ancora 4 giorni e daremo il massimo. Allora, io in un minuto voglio fare i complimenti a Pier Augusto Stagi, perché l'altro giorno, mentre io sbagliavo in maniera clamorosa tutti i pronostici sul basket, e spero di riuscire a farlo ancora, diceva alla cronometro Aru prende la maglia. Non è successo così, però adesso tutti dicono Aru favorito. Pier, in un minuto mi spieghi perché? Perché lì a un passo, 3 secondi sono veramente un'inezia. Sono 150 metri in salita e visto che questa Vuelta, in tutti gli arrivi in salita, su tutte le montagne, Fabio ha sempre lasciato alle sue spalle Dumoulin, ha veramente a questo punto la Vuelta lì a portata di mano. È come calciare un calcio di rigore a porta vuota. Certo, si può anche sbagliare il calcio di rigore a porta vuota, ma credo che Fabio abbia la serenità, la lucidità, la freddezza per poter tirare un calcio di rigore a porta vuota davanti a 100.000 spettatori e non provare il minimo dell'emozione. L'ha dimostrato in questi giorni di mantenere i nervi saldi, sta molto bene, ha fatto una crono secondo me molto buona. Io ti avevo anche detto che avrebbe tenuto la maglia per pochi secondi, ma la teneva, ho sbagliato di 3 secondi. Però non importa, a questo punto abbiamo la corsa lì a portata di mano, deve solo andarla a prendere. Ne parliamo domani, Pierluigi. Grazie, Pier Augusto, non Pierluigi, ciao, Pardo, ciao, che ciao. Oggi era contumace. Ciao Pier Augusto Stagi, grazie a tutti. ci sentiamo domani alle 14 da Expo, tutti convocati. Secondo me questo è tutto da rifare.